papà ce mi dai, Maria, quanto amore tu hai, Maria, quando sento che sei accanto a me, il nemico mio se ne va. Quanta pace mi dai, Maria, quanto amore tu hai, Maria, ogni volta che guardo gli occhi tuoi, vedo lacrime d'amore. Maria, prega per tutti noi, dolce Maria, prega Gesù per noi.